140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il mio account @MartaCagnola o con l'hashtag #cancelletto140caratteri. Come ogni settimana, mano a mano, ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Parole dintorni, ufficio stampa, Milano. Una voce di successo fin dagli anni 90, prima coi Prozac più, poi coi Rezofonic. Ora, con l'album Dura Madre, si mette in gioco da sola. Eva. C'era il bisogno, sentivo l'esigenza proprio, avevo bisogno di esprimere questa parte di me che c'era comunque, ma che insomma, grazie alla fortuna che ho avuto, perché è stata una fortuna quella di suonare, di fare parte di Prozac più, insomma non mi ero fermata alla fine nella scrittura in quel periodo lì. Io già prima avevo altri gruppi e scrivevo, insomma, componevo, però con l'arrivo di Prozac più, di questa avventura qui, cioè, c'era già Maria che scriveva tantissimo, e quindi insomma squadra vincente non si cambia, no? E io da lì, poi c'erano un sacco di impegni e tutto il resto, al fine ho smesso di scrivere, anche di tutto sommato non sentivo neanche l'esigenza in quel momento. Quando poi ci siamo fermati con i Prozac più, mi sono un po' ripresa la mia vita, perché comunque lavorare con un gruppo che come era il nostro, suonavamo veramente tanto ed era veramente molto impegnativo, quindi non è che avessi tanto tempo per fare altre cose, e quindi questa pausa tra virgolette di riflessione mi è servita molto. Mi sono ripresa un pochino in mano le mie cose, ho ripreso l'università, ho iniziato a insegnare, anzi anch'io canto quindi condividiamo questa esperienza, tu in francese, io al canto. E quindi insomma ho iniziato a sperimentare tutta una serie di cose che avevo lasciato lì un attimino. Dopodiché sono stata reclutata nel Rezofonic e ben volentieri ho accettato, e anche lì ci sono state delle esperienze insomma veramente arricchenti, sia a livello umano che artistico, e ho avuto l'opportunità quindi di conoscere tantissimi colleghi che mi hanno anche insegnato tanto, anche un po' rubacchiato da uno e dall'altro, e è stata un'esperienza veramente veramente importante anche questa. E poi insomma in questo periodo, alla fine, con tutta questa ricchezza, con tutte queste esperienze che stavo facendo, è riemerso la necessità, il bisogno di riprendere da dove mi ero fermata quando avevo smesso di scrivere, e ho voluto ricominciare a scrivere. Ci sono troppe storie che non voglio più riascoltare, perché non fanno parte di me, non sono niente per me. Nato Dura Madre, e io grazie a te ho scoperto cos'è la Dura Madre, che non è solo una metafora di qualcosa che ci insegna, ma com'è questa storia, come l'hai trovato questo titolo? Era un po' di mesi che cercavo il titolo dell'album e assolutamente non lo trovavo, mi venivano in mente tutte idee insomma che non mi convincevano per niente. Alla fine eravamo tipo in ansia, c'era il mio booking che mi chiamava un giorno sì un giorno no, io entravo abbastanza in crisi. E poi insomma una mattina nel dormiveglia mi viene in mente questa parola, Dura Madre. Mi sono proprio girata sul letto, ho preso il computer, ho aperto Wikipedia e sono andata a vedere se effettivamente era giusto il significato che collegavo, e in effetti era proprio quello, quindi si faceva riferimento alla pachimeninge, che è questa membrana che diciamo protettiva, che protegge appunto, ricopre, riveste il cervello e anche il midollo spinale, e quindi per me ha subito avuto senso. Intanto mi piaceva moltissimo anche il suono, perché mi piace tantissimo il suono Dura Madre, mi funziona proprio un casino. Poi Eva, Dura Madre, Eva Madre, cioè secondo me c'è tutto un giro mentale che mi faccio io un trip. E poi insomma il fatto che questa membrana protettrice del cervello, che è la sede dei nostri pensieri, della nostra evoluzione, di quello che noi siamo, poi potesse anche essere letta come una madre dura, quindi una madre molto severa. La nostra vita è spesso madre matrigna, no? Perché spesso ci mette di fronte a delle prove, a delle scelte molto insomma toste, quindi dure, toste, lo fa per protezione, perché ci vuole preparare, secondo me. Mi sono fatta questo viaggio mentale, per cui secondo me la vita tante volte ti mette di fronte a delle prove insomma abbastanza pesanti, perché comunque tu le superi. Se tu le superi, queste sono solitamente le esperienze più formative, e quelle che comunque ti si piantano nel cervello e difficilmente ti permettono di compiere gli stessi errori o comunque di non imparare la lezione. Così ho veramente capito che avevo trovato il titolo per il mio disco, perché fondamentalmente il mio disco di questo parla della crescita, dell'esperienza, della vita. Regina veleno, amore vietato, ghiacciato, malato, paralizzato, miele quando viene più dolce del mare. Non è un concept album, lo hai detto, però alla fine viene fuori in tutti i testi una grande voglia di crescita, di trasformazione, di esperienza, di andare al di là delle apparenze, di trovare una profondità e anche magari di raggiungere un ideale di profondità che tu ti sei prefissata. C'è questo sforzo di maturazione, di intensità. Io l'ho letto così. Sì, hai centrato l'obiettivo. Io ho sempre avuto una passione tanto per l'analisi dei comportamenti, del mio in primis e poi anche quello degli altri fondamentalmente. E tutto il disco poi gira e ruota attorno anche alla voglia proprio di crescere, di capirsi, di conoscersi, di evolversi, di migliorarsi, di confrontarsi. Quindi sì, hai centrato l'obiettivo. Successo, visto che insieme ai Prozac Plus sei stata anche molto mainstream, e quanto è nelle tue corde? Beh, io e il successo siamo usciti per un lungo periodo. No, dai. Ma insomma, avere successo è una bella cosa, inutile che stiamo qua a menarcela. Fa piacere a tutti, alle volte è impegnativo perché comunque è una responsabilità, e così come lo è stato appunto per me il fatto di arrivare da un background di grande successo e doverci mettere poi la faccia e dire ok, adesso rischio di mio, cioè, però rischio molto di più di qualcuno che non aveva mai fatto niente. Però ovviamente il successo è sicuramente molto appagante, è bello farsi trattare in maniera privilegiata, è bello che tutti quando ti salutano ti sorridono, insomma fa piacere a tutti, chiunque ti dica che è stanco, che non ha voglia di firmare autografi, che non gli fa piacere, ti starà contando una stupidaggine, perché non è vero. Poi però bisogna avere anche le palle, insomma, e la testa fondamentalmente di capire che non è tutto, che noi non siamo solo quello che gli altri ci dicono che siamo, e questo fa parte di una crescita che ognuno deve fare da solo, è qualcosa di molto personale, è qualcosa di molto intimo. Quindi ti chiedo se adesso hai dei timori, mettendoci la faccia in prima persona e dire questa sono io. Beh, devo dire che i timori li ho avuti soprattutto prima, ecco, quando non sapevo se poi alla fine avrei fatto uscire qualcosa, quando tutti mi dicevano ma fai un disco, io ero lì che pensavo sì faccio un disco, poi magari tutti mi dicono faccio schifo, grazie al cavolo. Insomma un po' ci pensavo, questi erano i miei timori. Io poi non sono mai stata una persona con una incredibile autostima, anche se molti possono non crederci. E perciò, insomma, ci ho pensato bene prima. Adesso che ho fatto il disco e ho visto il risultato, ne sono molto contenta, ne sono entusiasta. E quindi per me ho già avuto il mio successo in qualche modo, non so come dire, tutto quello che arriva poi sarà grasso che cola. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La televisione nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Università Yulm, Milano. Hanno incontrato gli studenti universitari allo Yulm Creative Happening, ma per Luca e Paolo la satira si può insegnare e apprendere? No, nel senso che si può insegnare, come per uno dei nostri maestri che è stato Giorgio Gaber, ci ha insegnato come dire, i modi della comicità, ma i tempi non si possono insegnare. E i tempi sono la base di tutto. Mi sono tornato con le go. Mi sono di nuovo collegato. Perché questa settimana. Volevo ringraziarvi. Che non mi considerava nessuno. Nessuno mi considerava più. Invece ora sono arrivati. Invece adesso sono arrivati i giornalisti. Sono arrivati dei fotografi. E poi i fotografi. Che mi fanno tante fotografie. Con le loro foto. Ma cosa ti fa? Ma cosa stai facendo? Ma ti gravietti e corna. E cornuto sarai tu. Ma chi l'ha fatto entrare sto chi? Chi ha detto di entrare a questo? Era solo uno scherzo. Che caratteraccio, Cribbio. Vado da Confalonieri. Ma vai, scemelante, guerra. Vai pure, stupido. Ha rotta sta banza? Eh? E di nuovo il suo tipico gioco gli ha fatto. Ci sono cascato, Cribbio. Avete fatto satira su argomenti e personaggi apparentemente impossibili. Bin Laden. E anche in contesti difficili. Lo stesso Sanremo, contesto difficilissimo. E anche scherzi a parte in qualche modo. Perché? È una vostra scelta? E come vi comportate? È una sfida? Ma no, facciamo semplicemente il nostro mestiere e facciamo quello che ci piace fare, osserviamo dove stiamo e come si diceva prima osserviamo anche i nostri difetti, no? Tentiamo il più possibile di osservarci da fuori e quindi ci rendiamo conto di essere ridicoli ogni tanto nelle nostre ipocrisie, nelle nostre contraddizioni e da qui poi nascono i pezzi, ma non è una sfida, è un bisogno di fare quello che ci piace. Questo nome è un po' d'anni che è diventata la nostra fonte di ispirazione, avete sì, capito? Va bene, perché mentre ci giriamo intorno vedo già le mazze lì davanti che gli brucia, sai, se di là. E allora partiamo. Dai. Partiamo con il pelato. Quello che arriva lui e cambia tutto il super pelatone. Roberto Saviano. Al nome Roberto Saviano. Non si capisce, dove finisce la testa, dove inizia ma il mento. Ma sei scemo, ma non una si palla, può, non si può, ma non si può fare la satira su Roberto Saviano. Ma no, un giornalista serio. Ma è un giornalista serissimo, è uno che ha il coraggio di dire veramente come stanno le cose. Sì, lo dice, ma ci mette delle ore. Ma non è vero. Fa ste pause lunghe. Io in Campania... No, in campagna, e 2 ore fa hai detto in campagna. C'è la camorra. Lo so! Capito? Non è che se mi allunghi la broda. Vabbè, dove parcheggiano i camion fuori? Dove parcheggiano i camion fuori? Si mangia bene. Non si può scherzare sul Saviano, va bene. Hai detto una cosa molto particolare, avete detto che bisogna voler bene a chi si colpisce, è così? Sì, nel senso che quando fai qualcuno, quando prendi in giro qualcuno, devi avere sempre della comprensione, ma questa è una regola poi della recitazione, nel senso che quando tu interpreti un cattivo, non devi pensare che sia cattivo, perché sennò non riuscirai mai a farlo. E la stessa cosa succede nella comicità. Quando tu prendi in giro qualcuno, non può diventare un tuo concorrente, un tuo bersaglio. Non deve essere una questione personale, ma devi in qualche modo volergli bene. In quel modo lì riuscirai a prenderlo in giro, se no si vede l'odio, e l'odio non fa ridere. Ringraziamo Mediaset. che ci ha permesso di essere qui. Vedi? Hai visto? Bravo, bipartisan, bravissimo. Ma che bipartisan? A me non mi frega no, cazzo. Non è che bipartisan. Che basta questo bipartisan? Ma è possibile che in questo paese uno non possa dire quello che pensa? Che deve dire ogni da parte o dall'altra? Io penso ai cazzi miei, basta. Quante volte vi hanno chiesto se siete liberi in Mediaset? Molte volte. Molte volte. Stupidaggine. Non vi viene mai voglia di fare come la scena di Sanremo con il bicchiere di champagne? Ma no, ma è come dire, ognuno può lavorare dove vuole, se è libero è libero, se no non lo è, ma non lo sei intellettualmente, no? È come, non credo che nessuno in Radio 24 lavori con l'incubo di essere alla radio di Confindustria, credo che oppure magari c'è qualcuno che lo fa, ma lo farebbe che se anche lavorasse da un'altra parte, capito? Sarebbe schiavo anche da un'altra parte. Se tu sei schiavo, sei schiavo, se sei libero, sei libero dovunque lavori. Sì, beh, e poi è anche vero che quando si parla di libertà si pensa spesso a chi ti sta molto sopra, no? A mosse dall'alto, invece poi spesso i problemi sono nel quotidiano, con le persone con le quali hai a che fare tutti i giorni, quindi però insomma si va avanti. Per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi gli albanesi, i negri, gli ebrei, i rom. Noi rom no, dai. La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Ma che bel ponte che abbiamo, è tutto bianco, tutto dipinto di bianco, ma che bello bianco. Non ho mai visto una nave rossa, un po' volgare effettivamente. Avanti, avanti, avanti, si può spingere di più, insieme nella vita testa in su. Sul mare la nave biancheggia, così suggestiva, un fascino strano anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro mi sento poco bene. Crisi della TV generalista, voi guardate spesso a esempi del passato, cosa bisogna fare invece per andare avanti? Andarsene. No. Purtroppo adesso c'è un momento molto difficile per la TV, ma più che altro difficile perché si era abituati a certi numeri che non ci saranno più, perché ormai il frazionamento delle... Io che purtroppo poi passo anche le giornate non solo a scrivere ma anche a guardare grafici, a cercare di andare a recuperare pubblico da qualche parte, noi adesso abbiamo un totale terrestri, che vuol dire tutti gli altri canali oltre i 7, tutti gli altri canali ogni sera portano via almeno il 20-25% di pubblico, cosa di pubblicità. E di pubblicità, cosa che fino a 5 anni fa non era neanche, cioè vuol dire che quel 20% lì l'abbiamo perso per sempre e probabilmente ne perderemo ancora un po', e quindi bisogna riflettere, ripartire da capo, e la TV generalista dovrà... Sicuramente ci dovrà essere anche una razionalizzazione dei costi, che non potranno più essere quelli di un tempo. Noi a volte per ridere ci diciamo è tutto finito. Sì. Ma perché, però, come dire, non c'è una fine senza un inizio dopo. Si tratta solo di capire che tutto evolve molto più velocemente che un tempo. I cambiamenti 20 anni fa erano cambiamenti molto lenti. Adesso stiamo ancora parlando della TV generalista quando... come dire, non solo c'è stato il dopo, ma si è già evoluto quello che c'è stato dopo, e quindi secondo me bisogna tentare in tutti i modi di tentare di rinnovare quello che c'è, capendo che però le regole in campo sono diverse, le variabili sono cambiate completamente, basta vedere il bacino d'utenza del satellite. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il mio Twitter @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.